America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, un'intervista rovente di Donald Trump al New York Times. Da una parte si è difeso, dice: il Russiagate è una montatura, l'incontro di mio figlio con l'avvocatessa russa è stata una cosa assolutamente normale, dunque non ci saranno conseguenze. Però molti insistono che in realtà quella è la pistola fumante, e cioè la prova che la campagna elettorale del presidente Donald Trump stava cercando di utilizzare l'aiuto di un paese straniero, o comunque di esponenti di un paese straniero, cosa proibita dalla legge, per interferire nella campagna elettorale americana. In questa intervista Trump ha anche attaccato Jeff Sessions, il segretario alla giustizia. Ha detto: se io avessi saputo che Sessions si sarebbe tirato fuori, ricusato da qualunque elemento legato al Russiagate, beh, non l'avrei nominato, doveva dirmelo. Ebbene, davanti a questa dimostrazione di sfiducia, Sessions ha detto: no, ma io resterò al mio posto. Perché? Beh, qualcuno mi diceva da Washington che è questo il modus operandi del presidente americano: cerca di umiliare, attaccare le persone vicino a lui per testare il loro grado di lealtà. E dunque, mentre la politica americana impazza, io direi oggi parliamo d'altro, perché non ci sono molte notizie rilevanti, e parliamo soprattutto di musica con un solo andata. Beh, l'estate, vi ho fatto sentire questa canzone, è una canzone particolare, una canzone che forse non avrete immediatamente riconosciuto, perché è di un giovane autore italiano che ha deciso di venire a New York e prendersi un biglietto di sola andata. Si chiama Sacha Barbeau. Siamo d'estate, la musica domina un po' dappertutto, la gente è fuori, c'è caldo, e nella città allargata, e cioè a Brooklyn, quello che domina è la musica. E io, proprio nello spirito del solo andata, e cioè, lo sapete ormai, sono coloro che hanno deciso di prendersi un biglietto di solo andata per l'America, ho con me ai microfoni di America 24 proprio l'autore di questa canzone, cioè Sacha Barbeau. Buongiorno Sacha. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora Sacha, grazie a te per essere qui con noi in studio a New York, ai margini di Stone Street. Insomma, Stone Street fa un po' concorrenza a Brooklyn, di la verità. Sì, ma ogni parte di Manhattan, di New York, comunque è magica. Come hai detto tu nell'introduzione, la musica c'è, dal live all'elettronica al jazz, è uno dei motivi per i quali sono venuti qua. Brooklyn ormai è diventato, come dire, un po' il nuovo village, è diventato il nuovo quartiere bohemien, ormai post bohemien, perché a questo punto gli speculatori sono andati, hanno costruito, sì. Sta diventando quasi di lusso, è vero o no? Assolutamente, però la scena artistica è molto interessante, infatti molti musicisti o anche scrittori, registi vivono da quelle parti là, quindi è un vibe, così lo definiamo qua, quindi un tipo di energia differente rispetto a Manhattan, ma vuol dire entrambe sono affascinanti. Infatti io lavoro molto a Manhattan. Io, sì, come definizione credo di essere un DJ, singer, composer. Ma perché hai preso un biglietto di sola andata? Quando? Come mai? Le mie radici sono fortemente italiane. Io sono italiano, sono cresciuto a Roma, però ad un certo punto ho iniziato a viaggiare grazie al mio lavoro, quindi facendo delle gigs in giro. Sono venuto a New York, mi sono innamorato, ho deciso di stabilirmi qua. Ti sei innamorato perché... di una donna o ti sei innamorato della città? Beh, di donne qui ce ne sono tante e di varie nazioni, quindi insomma ci sono tanti input qua, ecco. Non, ci si innamora, manco, di molte cose a New York, diciamo, ecco. Però sì, scusa, devo fartela. Cioè, tu sei di Roma, di dove? Sono di Monteverde. Monteverde. Allora, sì, dico, qua siamo a New York, la capitale della musica, disc jockey di ogni genere, ci sono disc jockey che da qui partono per andare in tutto il mondo, e tu arrivi qui e dici: scusate, io qui sono da Monteverde, però voglio fare disc jockey. Beh, è una bella sfida, o no? Certo, ma insomma, noi cresciamo mettendoci alla prova, e io sto già crescendo, e questo è importante. Mi viene in mente, visto che canti, tu devi sapere che quando ho degli ospiti come te, che così hanno una vocazione artistica, cantano, cerco di fare, ho questa piccola debolezza, che ogni tanto voglio anch'io cantare, voglio anch'io fare un piccolo duetto. Allora, mi viene in mente una cosa: tu vivi a Brooklyn. Sì. E abbiamo detto Brooklyn è un po' il quartiere bohemien, il quartiere così dei giovani, si sono trasferiti lì. Allora, dovendo scegliere una canzone, non so se sei d'accordo, ma mi viene in mente, quindi lo condivido con te, mi viene in mente La Gatta. Mi viene in mente. Ah, sì, sì. No, perché la gatta e la soffitta gioventù, il quartiere di Genova dove sì. i giovani un po' boemia, Gino Paoli, no? Sì, i ricordi grande, della sì. gioventù, di questa situazione un po' appunto bohemienne. Vogliamo provare a fare un piccolo giro? Scusa, assolutamente, dai. E poi ti prendo in contropiede, perché quando tu riparti col ritornello La Gatta, beh, lì facciamo una sorpresina, vediamo se funziona, okay, perché okay. match perfettamente con una canzone americana molto bella. Okay. Andiamo. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonava, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina e poi sorrideva e se ne tornava su. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino. Bravissimo, abbiamo fatto il medley, ci siamo avvicinati all'America dalla gatta a Blue Moon, che senza, poi, senza neanche organizzarci, senza neanche organizzare o provare, bello. Fantastico. Beh, qui vediamo il vero artista, ma andiamo avanti. Qual è il tuo futuro a New York e a Brooklyn? Continuare a lavorare come DJ in molti eventi a cui già sto lavorando e continuare a viaggiare, cosa che sto facendo, ma New York rimarrà la mia base. Ovviamente continuare con produzioni musicali. Adesso sono su un vibe che è un mix di blues, soul mischiato all'elettronica. Quindi voglio portare avanti questa direzione perché, per esempio, lo scorso anno ho avuto due canzoni in classifica su Beatport. Bene, sono contento, ma erano collaborazioni con altre persone, quindi è uscita fuori una parte della mia anima. Ma se tu devi dare un consiglio a chi ci ascolta, magari c'è qualche genitore in macchina che dice ma mio figlio vuole andare in America, una follia. Ecco, tu che dici a chi sta pensando di prenderlo magari questo biglietto di sola andata? Certamente essere pronti a vivere delle grandissime esperienze come prova per se stessi e ci saranno anche tante soddisfazioni, magari non quelle che stai cercando, ma questa città ti darà indietro energia e insegnamento. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericamericam